È stata molto bella, sono contento. Lo voglio dedicare assolutamente al Ziz. Secondo me anche lui mi ha dato un po' una mano. Bisogna stare sereni. Quando le cose non vanno benissimo, bisogna mantenere calma e serenità. Un grandissimo entusiasmo che questo Open Italia meritava. È stato un giro incredibile, assolutamente. Specialmente le seconde nove sono state probabilmente le migliori della mia vita. Tutti convocati di Carlo Genta. Franco Piantarini in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Non è casuale, ovviamente, l'incipit della sigla con Adriano Galliani che dice: quando le cose non vanno bene bisogna stare calmi, bisogna stare sereni. È solo il primo giorno d'autunno, ma il grande freddo è già arrivato al Milan. Sul sito del Milan oggi a Milan Channel invece conferenza stampa congiunta in puro stile sovietico. Ma cosa volete che sia mai successo? Ma cosa vuoi? Ma quando? Scemo! Corattino! Ignorante! Imbecille! Scemo! Ma non è vero! Ma non è successo niente tra Inzaghi e Allegri! Ma non è successo niente! 8-0-0-24-0-0-24 siete convocati voi tutti, naturalmente. Poi parliamo anche di ciclismo, parliamo con il telecronista della settimana, insomma tante cose, però... Non è successo niente, lo dice a Milan Channel dalla sede del Milan Massimiliano Allegri. Fra me e Pippo non c'è nessun problema, c'è stato solo uno scambio di un minuto di opinioni senza offese, come è stato scritto. Ma no, smettetela, ma non è successo niente, confermo, i ragazzi non si sono accorti di nulla. Tra l'altro non è che è stato in una stanza al centro del campo di Wismara, insomma, dove si allenano i ragazzi. C'erano i ragazzi, c'erano i genitori, anche se erano piuttosto lontani. Spero di rimanere al Milan a lungo, ha aggiunto Allegri. Chissà come la pensa Inzaghi. Filippo ha tutte le caratteristiche per fare una buona carriera come allenatore, partendo da un'ottima base. Ma cosa dite? Cosa dite che hanno litigato? Scemo! Ma non è vero! Ma non è vero! Ma tra l'altro i rapporti tra Inzaghi e Allegri sono sempre stati idilliaci, no? Ho deciso, purtroppo ho dovuto fare una scelta dolorosa, ma l'ho dovuta fare e rimane fuori dalla lista Champions Filippo Inzaghi. Non l'ha presa benissimo, era normale, però gli ho anche detto che l'aspettiamo nelle migliori condizioni per poter essere poi di nuovo messo dentro a gennaio. Ho cominciato a giocare, sognavo di vincere la Champions League da giocatore, ci sono riuscito, adesso spero di vincere da allenatore del Milan. È la prima partita del campionato lievi, state calmi, capisco che Pippo sia mediatico, ma insomma, voglio dire, è la prima partita da allenatore del campionato nazionale allievi. Cercherò di crescere partita dopo partita, mese dopo mese, e poi il futuro, chi lo sa, se sarò bravo magari un'opportunità mi verrà data, se no mi divertirò con i giovani, che è veramente una bella esperienza. Per caso ieri o stamattina hai sentito Allegri, magari così per scambiarvi qualche opinione tattica? No, ho sentito Ancelotti. E adesso è colpa delle solite malelingue. Chi volete che siano i giornalisti che si sono inventati tutto? Perché Non è successo niente. Ma in testa questa cosa dove? Ma in testa questa cosa dove cosa? Ma in testa ma questa cosa dove? Ma non è vero che hanno litigato. Furio Fedele, cosa scrivi sul Corriere dello Sport? Hai ragione, è vero, non hanno litigato, tutto bene. Non so, buongiorno innanzitutto. Non buongiorno so a lei. Ho l'intervista su Milan Channel, la mo delle Iene. Sì. Amici, più di prima e come prima. La battuta è d'obbligo, speriamo che Allegri convochi Inzaghi per Udine perché ce n'è bisogno, visto che ha fatto la pace. È piaciuta, di la verità. Beh, mamma viene mia. Spontanea qualsiasi battuta. Viene spontanea qualsiasi battuta, infatti aspetto quelle degli ascoltatori, tutti convocati naturalmente, 800 24 00 24. Mi è piaciuta la foto comparsa sul sito del Milan, abbracciati e sorridenti nella sala dei trofei, neanche nell'Unione Sovietica di Brezhnev, vedevi quelle cose lì, Sì, il problema è che non so se si vedevano i canini affilati del vampiro. No, beh, è chiaro, è piuttosto fanciullesca come iniziativa mediatica, lasciamelo dire, perché i due si odiano come prima e forse più di prima. Sì. Ma è giusto così, visto che insomma il nostro non è un ambiente per signorine, bisogna essere uomini veri in campo e fuori. Ognuno di noi oggi si è preso le sue responsabilità, parlo anche in nome dei colleghi, visto che ho qualche anno più di molti altri, e mi sembra che l'obiettivo sia stato centrato. Poi ovviamente il Milan giustamente cerca di medicare una ferita profonda, pesante, a memoria mai era successo un episodio no simile. Appunto è lì ti voglio, cioè il Milan è sempre stato maestro nella comunicazione, mi sembra che questa conferenza stampa allarghi la macchia invece di pulirla, punto primo. Secondo punto, gli interisti con le lacrime agli occhi un tempo dicevano che il segreto meno segreto del Milan che vinceva è che quegli spogliatoi non parlavano mai, anche se di cose da raccontare ovviamente ne avevano. Ma sai, io torno serio come giusto che sia nel fare una precisazione che è molto molto grave e pesante. Tutto questo è accaduto innanzitutto sul posto di lavoro e voi a Radio 24 mi insegnate che il posto di lavoro è sacro sotto tutti i punti di vista, maggior ragione di questi tempi. Tra l'altro, perché il centro tecnico di Smara è una sede di allenamento dei giovani del Milan. E questo è accaduto di fronte a dei ragazzi di 15-16 anni, di allievi allenati da Inzaghi e soprattutto davanti ai genitori. E tutto questo non è tollerabile, a maggior ragione se ovviamente si osserva che sia Inzaghi che Allegri dovrebbero essere dei maestri, degli insegnanti di calcio e anche di vita. E questo è sicuramente l'aspetto più raccapricciante e, lasciatemelo dire, anche più triste di tutta questa vicenda. E non siamo alle sberle degli Orossi agli Aic, tra l'altro ho letto in settimana degli Orossi ribadire che non ha ricevuto alcuna offesa, alcun insulto, eccetera, eccetera, quindi se si è ritornati su quella vicenda schifosa, in termini ancora più inspiegabili. Senti Furio, ti chiedo un attimo di pazienza perché poi vorrei chiederti cosa c'è davvero sotto a questa lite che ci siamo naturalmente inventati noi tutti, tu per primo. Vorrei chiederti cosa ci sta davvero sotto, vorrei chiederti davvero se quella di Allegri a Udine potrebbe essere l'ultima sua panchina prima dell'arrivo del grande amico Pippo Inzaghi. Volevo chiudere con Furio Fedele, inviato del Corriere dello Sport, che si è inventato insieme a tutti gli altri colleghi questa litigata che di fatto non c'è mai stata. Allora Furio, come stanno le cose? Le cose stanno che, ripeto, i due non si sono mai amati e adesso sicuramente e questo lo sappiamo. Fa un buon sangue e Inzaghi accusa Allegri, imputa Allegri di avergli rovinato un sogno, di una carriera che sembrava interminabile, che si è spenta in maniera incredibile nella scorsa stagione senza una sola partecipazione e convocazione in Champions League. Per due volte infatti Allegri aveva bocciato sia il 31 agosto sia il 31 gennaio Inzaghi, non inserendolo appunto nelle due liste. E per Inzaghi è stato un colpo mortale, un colpo letale, e che ha influito soprattutto sul suo morale. Ha trascorso un'estate fra dubbi e tante perplessità, poi ha deciso comunque di smettere e comunque di darsi a una carriera che è iniziata molto bene, quella di allenatore degli allievi nazionali con due vittorie. Sì. Allegri vede in Inzaghi un pericolo pubblico numero uno, che secondo me potrebbe essere al massimo il 4 o il 5, nel senso bisogna aspettare del tempo, perché Inzaghi, lui stesso lo ammette, non è ancora pronto per prendere una panchina che scotta. Sì. Non è così stupido Inzaghi da sedersi in prima linea in una stagione che è partita male e potrebbe addirittura proseguire peggio. Senti, ma mettiamo che il Milan perda a Udine, che succede? Allegri mi sembra molto a rischio, a prescindere da un fatto come quello dell'altro giorno, che l'ha messo ancora più in cattiva luce, soprattutto nei confronti della proprietà. Berlusconi si è disinnamorato quasi subito di lui, l'avrebbe volentieri esonerato volentieri, scusami, già dopo la partita contro l'Anderlecht, un altro momento buio di pessimo calcio e con un pessimo risultato di questo inizio di stagione. Allegri arriverà a Udine, certo che adesso insomma bisogna mantenere la calma sotto tutti i punti di vista, e la mia non è solo una battuta, e poi il destino del calcio potrebbe riservare qualsiasi sorpresa. Certo è che la situazione del Milan, al di là del nervosismo di Allegri e diciamo pure anche dell'invadenza mediatica di Inzaghi, che è un maestro in queste cose, bisogna riconoscerlo, diciamo la situazione del Milan è molto molto triste, molto molto buia, e rischia di diventare drammatica nel giro di poche settimane se dovesse continuare ad andare male sia in campionato che in Champions League. Sì, d'altra parte Furio, sai che Ibrahimovic ha detto che Inzaghi non è mai stato tanto un calciatore, più che altro un killer che ha un enorme istinto omicida davanti a una porta, mi sembra che ce l'abbia anche davanti a una panca. Davanti a tutto quello che è calcio, che è il suo, suo obiettivo, insomma. Sì, assolutamente. Ma io l'altro giorno gli ho mandato un messaggio e gli ho detto che comunque può essere un maestro di vita. Un maestro di vita per una vita che vuole essere di ambizione, di successi e di obiettivi raggiunti. Potrebbe sicuramente essere, ad esempio, per tanti giovani che magari si scoraggiano facilmente. Inzaghi è stato tanto bravo quanto fortunato, ma talvolta anche sfortunato dal punto di vista proprio fisico. Però ha sempre reagito, si è inventato forse un mestiere che nemmeno accarezzava, quello di allenatore, e potrebbe riuscire. La musichetta della Champions League per ora ce l'ha sul telefonino, probabilmente andrà a risentirla anche dal vivo, ed è una cosa che bisogna augurarsi. E scopriremo quando, tra non molto. Grazie Furio, buon lavoro. A voi, a presto. Grazie a Furio Fedele. Ma chi ve l'ha detto che parlo male del Milan, che ce l'ho col Milan, che semplicemente è una storia, insomma, a suo modo divertente. Beh, no, divertente no, perché così non si fa, perché non è nello stile del Milan innanzitutto provocare un incidente diplomatico di questo tipo. E poi, come ha detto giustamente Furio Fedele, pesa anche il luogo in cui questo diverbio, che non è mai avvenuto naturalmente, si è verificato. Glauco, Bologna, 800 24 00 24, siete tutti convocati. Buongiorno. Buongiorno, signor Zeta, dottor Zeta. Sono Glauco da Milano, comunque, non da Bologna. Ah, da Milano. Ma ha scritto da Bologna. Volevo mandare da Bologna. Va bene, si sta meglio a Bologna. Con tutto il rispetto, una piccola osservazione, non vorrei che la sua trasmissione prendesse un po' la china della trasmissione La Zanzara di Luciani, che è diventata una trasmissione un po' scherzosa, dopo ha perso un po' di contenuto. Con tutto il rispetto, perché lei la ritengo un ottimo giornalista, questa è una piccola parentesi. Sì. Poi mi piacerebbe, che non capisco questo accanimento davvero mediatico sul Milan. Cioè, allora io voglio, stia lì che voglio rispondere sui due fronti. Non è questione di far diventare questa trasmissione questo o quell'altro, è questione di alleggerire un po' i toni, perché in fondo parliamo di sport e di tutti gli sport, lo facciamo ogni giorno. Ed è bello qualche volta prendersi un po' meno sul serio, perché ho l'impressione che ci si prenda troppo sul serio, anche per quanto lei dice al punto B, cioè aggressione mediatica sul Milan non mi pare, semplicemente è cronaca quella che dice che il Milan in questo momento è in una crisi nera e profonda, societaria, strutturale, di organico, di squadra e anche di classifica. E le sembra accanimento? Guardi, le faccio un piccolo esempio, non cito il nome, c'è un bravissimo giornalista che scrive del Milan sul Corriere della Sera. Alberto Costa. Bravissimo. Anche in tempi non sospetti, un leggero accanimento di Alberto Costa nei confronti del Milan c'è sempre stato. Magari una linea editoriale, non lo so. Un'ultima cosa. No, ma mi dica, ma secondo lei il Milan va bene così? No, il Milan Milan va malissimo. Il Milan ha deciso quest'anno. E allora, dove lo vede l'accanimento? Mi scusi. Capito. No, l'accanimento lo vedo in questa cosa. Cioè, praticamente questa è una stagione difficile. Sì. Lo sapevamo già e quindi questa stagione difficile cerchiamo di prenderla nel miglior modo possibile. La squadra ha deciso di ridurre i propri debiti e cercheremo in qualche maniera di venirne poi nella maniera migliore possibile. Sì, sì. Un'ultima cosa prima di chiudere. Sì. Volevo dire, io sono anch'io giornalista, seppur semplicemente pubblicista, e so che le fonti non si rivelano. Ma se non è vero o è vero o non è vero, dove ha preso l'informazione Furio Fedele? In quale contesto? Genitori, calciatori, amici? No, ma guardi che, è scritto, è scritto ovunque, cioè è uno dei punti interessanti questo, perché dal Milan non usciva mai neanche uno spiffero. Una delle forze, dei segreti meno segreti del Milan era quella proprio di impermeabilizzare totalmente Milanlandia rispetto a alla stampa e alle voci che potevano uscire. Fino a non molto tempo fa bisognava arrampicarsi sugli alberi di Milanello per pizzicare lontano Ibrahimovic e ogni che si menavano. Che questo sia avvenuto in un luogo come il centro sportivo Wismara, davanti ai ragazzini e a molte persone, è preoccupante per il Milan stesso. Poi, quanto alla ricostruzione, quanto alla stagione di transizione, c'è modo e modo di vivere stagione di transizione. Secondo me il modo migliore è quello di provare a costruire e non vendere alla gente ciò che è impossibile. Cioè, questo Milan non è competitivo a nessun livello, secondo me, a livello di scudetto, non parliamo di Champions League. Inutile dire adesso abbiamo preso De Jong, abbiamo preso Pazzini, siamo competitivi, bisogna vincere, perché non è così. Marino Parma, buongiorno. Sì, buongiorno. Ho sentito l'ultimo pezzo della sua discussione con, immagino, uno che interveniva come me. Sì, bravo. Sì. Era in diretta radio. Come? Era in diretta radio. Era in diretta radio, sì, come lei. Sì, beh, perfetto. Volevo dire questo. Intanto mi sembra un po' esagerato, rifacendosi a quello che dicevo prima, perché, non so se lei o un suo collega di paragonato, diciamo quello che è successo stamattina a Via Turati, alla Unione Sovietica Brezneviana, insomma, detto lì, mi sembra un po' tirata per i capelli, ecco perché poi si parla di caso mediatico enfatizzato. No, va bene. Piuttosto, mi è sembrata qualcosa in stile sovietico, cioè è chiaro che i due hanno litigato. Ma i due hanno litigato, mi sembra la migliore ammissione di responsabilità possibile quella di farli andare lì e farli parlare congiuntamente, quando questa lite è avvenuta ed è scappata di mano. Probabilmente non era nemmeno opportuna la visita di Allegri in un momento come questo al centro sportivo Wismara, dove si allenano i ragazzini, perché era fatale che i due si incrociassero. Con tutto quello che si dice e si scrive in questo momento, e Inzaghi potrebbe prendere il suo posto e tra i due non c'è buon sangue, insomma, questa conferenza stampa sinceramente mi è sembrata, ripeto, un po' sovietica e anche un po' ridicola. Marino, ragione. Senta, no, dicevo, piuttosto mi piacerebbe sapere da voi giornalisti qualche cosa circa il responsabile, o non chiamiamolo responsabile, il fautore degli innesti avvenuti con rapidità gli ultimi 7-8 giorni di campagna acquisti. Chi ha voluto il Bojan? Chi ha voluto? Immagino De Jong, immagino Niang, eccetera. Ma io penso che non li abbia voluti nessuno, semplicemente erano quelli che il Milan poteva permettersi. Dovendo prendere dei giocatori, le opportunità sono state quelle, visto che non c'erano quattrini, sono stati presi quei giocatori. Non credo sia una scelta programmatica, cioè non credo che il Milan da un anno inseguisse Bojan o Niang o De Jong, non penso proprio. Ho notato che non parlate mai di Ippica, eppure produce tanto e fa mangiare 70.000 famiglie. Faremo anche questo, Walter su Twitter lo suggerisce, inseriremo in scaletta, promesso. Riccardo da Brescia. Ah, buongiorno. Buongiorno. Ascolti, io parlavo di Inzaghi allenatore. No, beh, io sono giuventino, ma dico due cose. Inzaghi cosa può insegnare? Come può allenare una squadra di calcio? Può al massimo allenare gli attaccanti a rubare qualche rigore, il massimo che può fare Inzaghi, voglio dire. Perché nella ci, carriera... ci va giù leggero. Sì, perché non ha, non ha fatto niente. Ma no, ha fatto tantissimo, però come diceva di, prima di me, è un killer d'area di rigore, perché è un tiro di gol eccezionale. Riesce a procurarsi rigori come nessun altro, poi voglio dire, sostituire Allegri per Inzaghi o per Guardiola. Facciamo i nomi del Barcellona quando allenava Guardiola e facciamo i nomi del Milan adesso che allena Allegri. Ma no, ma non, e dopodiché la risposta ma sì, ma non c'è discussione, Riccardo, non c'è discussione. Questa squadra non è, questa squadra non è competitiva. Io vorrei che Christian, che mi ha inviato un messaggio, mi chiamasse, vorrei convocarlo ufficialmente e urgentemente al telefono, perché ha scritto: ero al Vismara e ti dico che hanno discusso alla grande. Allora vorrei parlare con Christian, se possibile, se ne ha voglia. Gelido come la luna mi guarda, ma non mi parla mai. Dov'è l'amore? Dov'è la mia donna? Dobbiamo ricordarci, Paolino, di dire a Carlo, Carlo Genta, quando esce dallo studio, di abbassare un po' l'aria condizionata. Ci sono, ti credo, 12 gradi qua dentro. Gelido come fare l'amore, però pensare a un'altra situazione, una storia diversa. Caro Matteo Caccia, mettiti il maglione, io l'aria condizionata la tengo alta, quindi sono fatti tuoi. Ma andiamo all'euro serata di ieri sera. E non balliamo più, non balliamo più. Quindi si è creata questa tensione tra me e Carlo Genta. Io il maglione me lo sono messo perché continuano ad esserci 12 gradi nello studio, ma giuro che prima o poi glielo rompo quel robolo dell'aria condizionata, così anche lui sta ad una temperatura civile. Forse ancora tarderai, gelido è qualcosa non vorresti mai, ma gelido sarà. Ma non è vero, non abbiamo mica litigato io e Matteo Caccia, non siamo mica come Inzaghi e Allegri. Allora, informazioni di servizio, sono un sacco di ascoltatori, alcuni simpatici, altri meno. 800 24 00 24, tutti quelli che telefonano sono simpatici, sono tutti convocati, quelli che scrivono sms meno. Ovviamente le due voci che sentite, che vi abbiamo fatto sentire, sono un effetto sonoro, sono i soliti idioti, sono comici che recitano il loro sketch, era per darvi l'immagine di quello, metaforica, di quello che può essere successo. Se no, allora stiamo sempre seri, mandiamo le voci di conferenza stampa degli allenatori e vi mandiamo la voce di Allegri, poi lo faremo anche, che dice: non è successo niente tra me e Inzaghi, non scherziamo, è durato soltanto un minuto. Se vi interessa sentire quella roba lì, vabbè, la trovate ovunque. Quanto a Palaspicchi e discorsi sul basket, torneremo con l'inizio del campionato a parlare ampiamente di basket all'interno di questa ora di Tutti Convocati, per tutto il tempo che vorrete, ogni venerdì. Il telecronista della settimana, mio amico Jerry De Rosa, a proposito di basket. Ciao Jerry. Ciao Carlo, che bella imitazione che hai fatto, mi è piaciuta. Quale? Quella prima della voce di Allegri. No, ma non l'ho imitato. Posso provare, ma non mi viene bene. No, era un'interpretazione. Ma tanto non hanno litigato, è tutta una buffonata. Sto in testa, te lo do. Qualsiasi cosa sia successo non è di grande interesse, almeno per quanto mi riguarda. Senti, tu invece, a proposito di grande freddo, nulla è più gelato di una partita a porte chiuse e ti tocca domenica. Sì, infatti, Cagliari-Roma è una situazione con tanti colpevoli, ma mi sembra un segnale piuttosto preoccupante sulla situazione in generale delle nostre strutture sportive, dell'interesse che provocano nelle istituzioni. Io trovo allucinante che si arrivi a questo punto, che non si sia intervenuti prima da una parte e dall'altra. Senti, ti è mai capitato di fare una telecronaca, che sia di calcio, di basket, comunque all'interno di un impianto deserto? No, decisamente no, cioè almeno non per questi motivi. A volte, in certi momenti del basket, mi è capitato di farla con poche persone ad assistere alla partita, però no, non per questi motivi. Infatti sono curioso anche un po' di quello che succederà, perché lo sai, no, per un telecronista avere nelle orecchie il rumore del pubblico ti permette maggiormente di entrare nella partita, di entusiasmarti, di trasmettere anche queste emozioni, bisognerà trovare altre fonti. Credo che sia complicatissimo, caro Jerry. Forse infatti, magari anche un attestato di Sky nei tuoi confronti, perché cioè, credo che fare la telecronaca di una partita in uno stadio deserto sia veramente la cosa forse più difficile, senza avere il punto di riferimento nemmeno dell'effetto sonoro. Quindi, infatti, poi col rischio che in qualche modo le voci dei protagonisti arrivino. Che come sai può essere una cosa anche molto interessante sentire i consigli, ma anche piuttosto pericolosa sentendo le imprecazioni. Speriamo che sappiano controllarsi. Senti Jerry, sei curioso di vedere la Roma? Sì, soprattutto visti tutti gli alti e bassi che ha avuto in questa inizio di stagione. Sono obiettivamente troppe le versioni che abbiamo visto della Roma anche all'interno della stessa partita, quella col Bologna. È stata la dimostrazione, un grandissimo primo tempo, un pessimo secondo tempo. Non sarà la vera Roma, sarà una Roma molto giovane, questo aumenta un po' l'interesse, ma anche i rischi per Zeman. Si va verso questo trio d'attacco che fa 60 anni in tre con Destro, Lamela e Nico Lopez, molto affascinante, però è chiaro che non è la Roma vera senza Totti, Osvaldo, ma probabilmente anche De Rossi. Però sono curioso, così come ero curioso l'anno scorso di vedere Pescara. Sicuramente il divertimento non manca. Sì, e parlami di basket, bel signore. Siamo reduci comunque da un'estate molto soleggiata, col cielo molto azzurro, con una nazionale che sembra ritrovata, e siamo alla vigilia di un campionato e soprattutto di un antipasto, no? di una Supercoppa che vedrà di fronte le due grandi favorite per lo scudetto, ovviamente Milano e Siena, finaliste dell'anno scorso. Tu come lo leggi questo campionato? Ma guarda, secondo me la situazione paradossale è che siamo usciti dalla migliore estate, diciamo da 7 anni a questa parte della nazionale, al di là delle avversarie che abbiamo incontrato, ma proprio come spirito, come gruppo, questa è una squadra che ricorda quella di Recalcati, dell'Argento Olimpico, se ovviamente facendo le debite proporzioni, visto gli avversari, visti gli obiettivi, però questa è una squadra che ha una fortissima identità. Sì, c'entra qualcosa l'assenza di Bargnani e Berinelli, e ti faccio la domanda in modo malizioso? No, secondo me no. Cioè, anzi, forse è anche un po' troppo facile dare le colpe a loro due per i risultati negativi degli anni passati, perché negli anni passati questa squadra non aveva questa fortissima identità, nella quale cioè solo quando c'è questa identità e questa voglia di stare insieme tutti sono disposti a fare tutto, sia il lavoro sporco che quello più visibile. E la prova, la controprova di quanto sto dicendo l'avremo l'anno prossimo, quando spero che questi due torneranno a giocare per gli europei, e allora se falliranno anche in un gruppo così compatto, allora mi ricrederò e ti dirò che la colpa era loro, ma secondo me sarà molto più facile per loro trovare la loro dovranno però scendere a patti con il gruppo, cioè non saranno più quelli ma queste che... cose secondo me avvengono in maniera naturale quando c'è un gruppo così. Io ho visto la partita contro la Turchia, quella che abbiamo vinto là, a qualificazione già ottenuta, e secondo me è stato proprio il segnale più importante, una partita in cui tranquillamente si poteva, come si dice, tirare remi in barca sotto di 18 nel primo tempo. Invece la squadra da gruppo ha reagito, perché è un gruppo che vuole vincere qualsiasi partita. Sì. E le cose decisive le ha fatte Gallinari in difesa, facendo una stoppata, cioè facendo comunque un lavoro da gregario, e il calcio decisivo l'ha fatto da Tome, che certo, invece è sempre una responsabilità quasi da stella, e senza che questi ruoli siano definiti prima, è la partita che lo dice. E questo sono segnali da grande squadra. Certamente, sono segnali da squadra vera questi. Per chiudere, Jerry, ti chiedo pronostico secco: chi vince il campionato? Milano o Siena? O qualcun'altra? Qualcun'altra non credo. Mi viene da dire Milano in questo momento. Credo che se non lo vince quest'anno non lo vince più. Perché Siena ci ha abituato a dei miracoli, delle grandissime stagioni. Se dovesse proseguire sulla strada degli ultimi anni con un gruppo nuovo, con un allenatore relativamente nuovo perché faceva parte del gruppo precedente, soprattutto con la perdita di qualche giocatore che rappresentava davvero l'anima vincente di questo gruppo e che per questi 7 anni è stato il filo conduttore, mi riferisco a Storruca prendeva i nuovi, gli insegnava, diciamo, mostrando l'esempio sul campo, come si faceva a vincere, come si entrava in gruppo a Siena. L'assenza di Storuk, secondo me, se ne è parlato un po' poco e secondo me sarà il problema principale che Banchi dovrà affrontare. Per questo ti dico che vedo favorito a Milano. Grazie Jerry, buon viaggio per Cagliari e buon lavoro laggiù in quello stadio. Grazie. Quello stadio deserto, sai che fatica, sai che fatica. Tra l'altro, secondo me sarà fatalmente anche partita con molti gol da raccontare, quindi bisogna trovare il pathos senza il feeling del pubblico. 800 24 00 24, io invece ho abbastanza feeling con il pubblico, non con tutti, perché tra chi non mi sopporta più, tra chi vabbè, lasciamo stare, mi diverto lo stesso così. 800 24 00 24, e siete convocati tutti quanti, a cominciare da Davide da Ferrara. Buongiorno. Buongiorno. Volevo intervenire sul Milan e su Allegri. Cioè, la mia riflessione era questa: adesso chiaramente paga Allegri, è la cosa più banale, perché solitamente va così, l'allenatore è il primo che salta. Però oggettivamente Allegri gli è stata costruita una squadra, perlomeno un prototipo di squadra, gli ultimi 2 o 3 giorni di mercato. Non ha avuto neanche il tempo materiale per assemblare i giocatori, insomma, dare un minimo di equilibrio, di struttura alla squadra, e giustamente adesso paga lui, perché altrimenti risulterebbe troppo... Credo che qualcosa si sia rotto comunque nei rapporti tra Allegri e il club. L'unica cosa che dico è che, insomma, non è che la squadra sia stata costruita negli ultimi giorni. È arrivato Pazzini in cambio di Cassano, che ha fatto i capricci, ha puntato i piedi ed è voluto andare via. De Jong, ad esempio. De Jong, appunto, è arrivato all'ultimo istante, però non mi sembra il giocatore che ti cambia la squadra. Mi sembra però che Allegri non abbia impostato qualcosa di diverso, quando qualcosa di diverso, perdendo gli interpreti che avevi, ti serviva per forza. Cioè, no, non puoi giocare come quando avevi Thiago Silva e Ibrahimovic. Devi provare a comunque a dare alla squadra una faccia differente. Io questa faccia differente non la vedo. Vedo lo stesso identico Milan dell'anno scorso, senza i giocatori più forti. Giustamente dalla regia mi hanno sventolato un sacrosanto cartellino giallo, che io mi prendo tutto quanto intero senza fare una piega, perché la Supercoppa del Basket naturalmente non sarà tra Siena e Milano. Ho sbagliato io, è stato un errore, lapsus mio, ma sarà tra Cantù e Siena. Luca D'Avellino. Salve caro Carlo Genta. Innanzitutto le vorrei fare i miei complimenti per il modo in cui conduce questo spazio, a cui sono affezionatissimo. È diventato molto più brioso, molto più frizzante, ma quindi sì, anche più piacevole da ascoltare. Vorrei fare semplicemente 2 osservazioni. La prima, glielo dico molto sinceramente, da quando ho sentito la lite che voi state imitando molto bene in radio, non riesco a fare a meno di ridere, sì, in maniera molto amara, perché sono un tifoso del Milan, ma io sono sinceramente incredulo sul modo in cui la società sta gestendo questo tipo di sì, situazione. È in realtà la cosa che mi sorprende di più, molto di più, dello screzio che può esserci stato. Assolutamente, io al posto della società sinceramente avrei, non so se hai fatto finta di niente, comunque avrei cercato di far passare un po' in secondo piano questa cosa, e non avrei certamente convocato quella conferenza stampa, che ha qualcosa di incredibile. Ho letto un attimino su internet cosa ha detto Allegri, mi pare che abbia detto che è stato c'è stato un semplice scambio di opinioni senza alcun durato un minuto sì. È stato fantastico. E un'ultima cosa per quanto riguarda il Milan: come avrò capito, io sono un tifoso di questa squadra da sempre, quindi insieme a questa società e questa squadra ho gioito per tante coppe dei campioni, per tanti scudetti, eccetera. Ci può stare benissimo che una società che ha vinto tanto possa decidere, per motivi di bilancio e di costi, di ridimensionare ridimensionare la squadra, e quindi anche di ridimensionare quelle che sono le sue ambizioni. Io penso di rispecchiare le opinioni di molti tifosi del Milan. Ci sta benissimo, va benissimo, però noi pretendiamo chiarezza e rispetto, che la società ci dica semplicemente che per alcuni anni non avremo più la possibilità di vincere nulla. Noi tifosi continueremo a fare il tifo per la nostra squadra, ma almeno ci sentiremo un po' meno presi per i fondelli. Sì, tutto qui. Sì, non ho nulla da aggiungere, Luca, nulla da aggiungere, perché insomma è anche il pensiero mio, pur essendo tifoso milanista, e l'ho ripetuto più volte. Gianluca, Reggio Emilia. Buongiorno Carlo. Buongiorno. Faccia diversa, ecco. Io martedì sera ero a San Siro della partita. Faccia diversa rispetto a quando c'era il gioco di Thiago Silva e Ibrahimovic, sì, no? L'ha detto, esatto. Io martedì sera ero a San Siro e in realtà Allegri sta cercando di giocare come quando aveva questi giocatori. Appunto, qual è l'errore? Qual è l'errore? Non puoi giocare come quando avevi questi giocatori. Cioè, secondo me la principale responsabilità, poi è chiaro, siamo tutti bravi a dirlo, il tempo che ha avuto per preparare la squadra è stato poco, però io non ho visto nulla di diverso rispetto al Milan di quando c'era Ibrahimovic e di quando c'era Thiago Silva. È chiaro che se fai quel tipo di gioco con Ibra davanti, la partita la risolve lui, ha bisogno di spazio, eccetera. Questo Milan dovrebbe essere una squadra che corre, che usa le fasce, e non mi dite che non ha i giocatori, perché a mio parere Abate ed Emanuelson possono essere due eccellenti esterni. Deve essere una squadra che gioca in maniera provinciale, così si offenderà anche Stramaccioni, si offenderà Allegri, si offenderà Berlusconi, eccetera. Però è un Milan che dovrebbe giocare in maniera più corsara, più battagliera, e non con il passo lento e il tentativo di gestire le trame di centrocampo quando non hai centrocampisti con i piedi buoni e quando non hai Ibrahimovic davanti. Pazzini che ci sta a fare là davanti se non gli piove un pallone che non sia dal centrocampo o dalla tre quarti. Saluto Pier Augusto Staggi. Ciao Pier Augusto. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Che è in Olanda, giusto per avere un assaggio di mondiale di ciclismo. Domenica avremo tra l'altro anche Ivan Basso, che commenterà il Mondiale di Ciclismo su Radio 24 con Giovanni Capuano in A Tempo di Sport. Ebbene, Pier Augusto, che aria tira, che tempo fa? Ma oggi è una buona giornata, dopo le altre che sono state invece ventose e piovose. Infatti questo è un po' il punto di domanda, l'interrogativo che si pone anche Vincenzo Nibali, che è la nostra punta, l'uomo che sta meglio, l'uomo più esperto. Aspetta un attimo, fatemi sentire la TV. Al momento non esistono queste cose, ecco. Ciao, arrivederci a tutti. Prima sì. Bella botta. In momento abbiamo pizzicato solo l'ultima battuta di Allegri e Inzaghi, mentre Allegri faceva una carezza sulla testa di Inzaghi. Erano lì sorridenti uno accanto all'altro. Hanno mica litigato. Pier Augusto, dimmi. Eccomi. Sì, e ti stavo dicendo che il grande interrogativo è proprio dato dalle condizioni meteo. Nibali è il primo a dire che tempo farà domenica. Se sarà brutto tempo, lui è sicuro che sarà una corsa massacrante, molto molto dura. Se invece ci sarà una buona temperatura, sarà un mondiale più classico. Molto più classico, molto più veloce, e probabilmente una soluzione allo sprint per una ventina di corridori. Sì. E lì logicamente saranno favoriti atleti come Alejandro Valverde, che è molto molto veloce, Tom Bonemo, che sta andando molto forte tutto l'anno, che è andato fortissimo, ricordiamoci la primavera che ha fatto Tom Bonemo, e poi con il solito vecchio spagnolo Oscar Freire. Gli uomini da battere sono poi i belgi e gli spagnoli che vengono qua in Mambassa, sono Alberto sì. Contador, Joaquin Rodriguez, Valverde, Samuel Sanchez, tutti più ne ha più ne metta. I grandi favoriti sono loro, però noi i nostri Nibali e magari la sorpresa Moser vogliamo andarla a giocare questa carta. Grazie Pier Augusto, ci sentiamo nel corso del weekend. Io saluto Pier Augusto Staggi anche perché ho l'indovinello, perché oggi non è un indovinello, curiosità sulla Champions League. I numeri della Champions. Questa è davvero carina, perché come sapete la grande accusa che pende sulla testa di Zlatan Ibrahimovic è quello di non essere uomo da Europa, da Champions League, da grandi confronti. Pensate che è il primo giocatore della storia a segnare in Champions League con 6 squadre diverse. Cioè, il primo giocatore della storia a segnare con 6 maglie diverse in Champions League. 6 è anche il numero delle finali giocate a Wembley, sede dell'ultimo atto di questa edizione. La prima finale a Wembley fu nel 62-63, Milan-Benfica, 2-1 per i rossoneri con doppietta di José Altafini. Ultima, la vittoria del Barcellona sul Manchester United. Questa sarà la prima finale, fu la prima finale giocata nel nuovo impianto. I numeri della Champions. In collaboraione con Unicredit. Signori, io vi saluto e vi ringrazio. Vi lascio nel weekend nelle mani di Giovanni Capuano con A Tempo di Sport. Domani dalle 5 alle 6, domenica dalle 4 e mezza alle 7. Con il campionato di basket tornerà la sera alle 8 e mezza, domenica sera alle 8 e mezza anche Pallaspiche. Così abbiamo fatto un bel promo di ciò che ci aspetta di sportivo nel weekend. Per quanto ci riguarda, invece, con tutti i convocati, torniamo immancabilmente lunedì. Franco Piantarini in redazione, Roberto Scaltritti in regia, e chiudiamo con questo flash. Sicuramente la settimana, anche perché problemi non ce ne sono mai stati, no. E soprattutto in questo momento, visto che siamo tutti e due dalla stessa parte. Ma in questo momento non esistono queste cose, ecco. Ciao, arrivederci a tutti. Corrotti!